stanza degli occhiali da sole che brillano piantati sul tuo naso e i tuoi vestiti casual velleggiati all'aperto, la tua bocca evangelica fatta di cazzate, il tuo sciallo posato sui bicipiti, il tuo pene che se la tira e non si tocca, la here we go.